questo è Pensatech. Oggi venerdì, come sempre, l'appuntamento è con le nuove tecnologie e l'innovazione. Sono le 9:03 e siamo qua in studio per voi e ci rimarremo fino alle 9:30. Questa mattina il tema sarà nuove tecnologie e disabilità, infatti parliamo di Endymatica e la mostra convegno che da ieri e fino a domani si terrà all'Istituto Aldini Valeriani di Bologna. Tranquilli, non sono da sola questa mattina, accanto a me Marco Boscolo, buongiorno. Buongiorno Damiana, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. E dall'altra parte del vetro, con il suo tablet in mano, la nostra Elisabetta Tola. Buongiorno a tutti, pronti con il Twitter. E allora ricordiamo già i nostri contatti, visto che siamo proprio in tema. Allora, tradizionalmente, ve l'abbiamo ricordato anche per tutta la mattina, il nostro SMS è il 348-7649-289, la mail è diretta a @radiocittadelcapo.it, ma siamo anche sui nostri social network. Esatto, siamo su Twitter con Pensatech, col CH, quindi @Pensatech. E poi naturalmente la pagina Facebook di Radio Città del Capo. E allora aspettiamo le vostre osservazioni, i vostri commenti anche sulla puntata di oggi. Dicevamo, il tema è disabilità e nuove tecnologie. Allora, il tema è molto ampio e coinvolge in realtà tutti, non solo una minoranza di popolazione. Parliamo infatti di supporto al movimento, quindi non ci sono solo il supporto all'handicap, ma anche agli anziani. Insomma, si parla di una vita che è sempre più lunga, quindi è una cosa che coinvolge tutti, ma coinvolge tutti anche perché quello che sono i supporti alle disabilità per alcuni sono necessità, mentre per molti altri possono essere delle opportunità, anzi delle cose in più. E allora di questo tema parleremo sia nelle interviste che abbiamo raccolto direttamente a Endymatica, ma vogliamo parlarne anche con l'ospite che è in questo momento al telefono, Gianluca Borghi, che si occupa proprio della comunicazione di Endymatica. Buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Allora, diciamo, un tema veramente molto ampio. Intanto Borghi, ci vuole fare una panoramica di quelle che sono le esposizioni che ci sono in questo momento all'Istituto Aldini Valeriani? Sì, intanto una premessa. Endymatica è giunta alla nona edizione, ogni 2 anni a Bologna, ormai da 18 anni svolgiamo questo evento. Organizza Endymatica la Fondazione ASPI. Fondazione ASPI nasce 30 anni fa da una sorta di spin-off di IBM, avendo l'obiettivo di utilizzare le tecnologie disponibili, le migliori tecnologie disponibili, per facilitare l'inserimento scolastico e lavorativo delle persone con disabilità, in particolare allora nel 1980 ipovedenti o non vedenti, che attraverso strumentazione informatica oggi preistorica, allora assolutamente all'avanguardia, poterono iniziare con percorsi per programmatore e quindi essere inseriti nel mondo del lavoro. Quindi partiva oggi dalla scuola e adesso la scuola è anche la location. Assolutamente sì, siamo alle Aldini da 2 edizioni, per molti motivi, uno anche simbolico, abbiamo voluto, simbolico e sostanziale, si è voluto andare in uno dei presidi formativi più importanti della città e abbiamo anche coinvolto in questo modo centinaia di giovani che assistono assieme allo staff di ASPI i visitatori di Endymatica, che sono coinvolti anche in molte delle iniziative. Oggi allora Endymatica vuole continuare ad essere quella finestra sull'innovazione tecnologica. Ci occupiamo, come lei diceva, di scuola, di integrazione sociale, di integrazione lavorativa. Alcuni esempi allora. Da alcuni mesi abbiamo aperto una finestra su un mondo rilevantissimo, che è quello delle strutture per anziani anche non autosufficienti, all'interno delle quali, attraverso le competenze, penso ad esempio agli ausili, alle tecnologie assistive che ASPI possiede, abbiamo contaminato il lavoro degli operatori. I giochi di stimolazione cognitiva, della memoria, che quotidianamente, gli esercizi per meglio dire, che quotidianamente vengono svolti all'interno delle strutture protette per anziani, ora attraverso questo nostro lavoro saranno effettuati anche con tablet, con software didattici che fino ad ora sono stati utilizzati per bambini, ma che appunto invece sono già utilmente e quotidianamente utilizzati per la stimolazione delle persone anziane. Devo dire, al di là di quel che si può pensare, persone anziane con ridotta autosufficienza hanno ritrovato invece stimoli assolutamente inaspettati dall'utilizzo di tablet, dall'utilizzo di tastiere facilitate, dall'utilizzo di Google, portandoli in modo assolutamente semplice attraverso ad esempio Google Maps a rivisitare i luoghi della loro vita. Ancora sulla scuola abbiamo un importante lavoro sulle disabilità acquisite o sulle disabilità anche in questo caso cognitive o disturbi specifici dell'apprendimento. Pensiamo ai ragazzi con discalculia, dislessia, patologie molto spesso non riconosciute che causano una distanza molto forte anche dal contesto di classe. Attraverso software, attraverso anche in questo caso aule digitali già possibili, che purtroppo, vista la condizione in cui versa la scuola, non sempre però risultano essere disponibili, noi vogliamo invece dimostrare come appunto anche in questo caso con l'utilizzo di applicazioni particolari e facilitate possiamo non solo comprendere meglio quali sono i sintomi dei disturbi di apprendimento, ma anche aiutare gli insegnanti nel loro sostegno ai bambini e ai ragazzi in difficoltà. Ecco Borghi, la scuola è uno dei posti appunto in cui è importante introdurre queste nuove tecnologie, diciamo prima non solo per una necessità ma anche per un'opportunità per tutto il resto della classe. Qual è però la situazione economica di fronte a una scuola che comunque subisce anche i tagli? Come queste tecnologie possono entrare comunque all'interno degli istituti scolastici? Ma ognuno di noi, se è genitore, sa quali sono appunto le condizioni della scuola, a partire dal fatto che i nostri ragazzi debbono portare molto spesso anche la carta igienica all'interno dell'istituto scolastico. Questa è la situazione, ma non possiamo, non vogliamo e non dobbiamo assolutamente rassegnarci. Ovviamente la missione di Fondazione ASPI è quella di introdurre, di proporre sperimentazioni ed innovazioni anche con ovviamente il rapporto con l'ufficio scolastico regionale. Noi pur all'interno di questa situazione sappiamo però che questa incredibile terza rivoluzione dell'informatica, per capirci quella che ha portato ad ognuno di noi smartphone e a molti di noi tablet sostitutivi di vecchi device, rende meno complesso comunque pur in questa situazione stimolare l'innovazione. Ad esempio molti dei software che noi utilizziamo, che noi mostriamo, che noi in qualche modo portiamo all'interno del circuito scolastico sono software già disponibili sul mercato gratuitamente, sono software che possono da domani essere utilizzati. C'è un tema di conoscenza, di relazione, ovviamente di formazione degli insegnanti, e anche questo è uno degli ambiti della nostra missione. E in Endimatica, attraverso i 60 fra laboratori, convegni, seminari e le presenze, fino ad ora abbiamo 4.000 iscrizioni, ma invito gli ascoltatori a venire alle Aldini oggi e domani in via Bassanelli, ci proponiamo. L'inaugurazione, all'interno dell'inaugurazione una delle tematiche che è stata toccata è quella del terremoto. È abbastanza affascinante vedere come chi ha una disabilità in realtà in una situazione di crisi può quasi essere di sostegno, nel senso che quello che sono le iniziative di sostegno sostegno normalmente durante la quotidianità per i disabili possono tornare utili anche in una situazione di crisi come è stata quella del terremoto in Emilia. Ce ne vuole parlare brevemente? Sì, c'è questo aspetto che ogni investimento fatto per, in senso lato, una società inclusiva è fatto per tutti. Rendere accessibili le postazioni, rendere accessibili le informazioni alle persone con disabilità, ad esempio uditiva, cognitiva o anche visiva, rende più accessibile la città, il contesto a tutte le persone. C'è un dato di disabilità acquisita che riguarda le persone anziane, terza, quarta età, con cui dobbiamo fare i conti, con cui vogliamo fare i conti. La progettazione inclusiva, il design for all, è allora davvero la chiave. Detto questo, evidentemente può accadere, è accaduto anche, che le persone in difficoltà in momenti, in contesti di straordinaria emergenza siano ulteriormente penalizzate. Ieri c'è stata una straordinaria testimonianza di una rappresentante dell'associazione dell'Ente Nazionale dei Sordi che appunto ci ricordava come, ad esempio, ogni allarme sonoro preclude a loro la possibilità di comprendere quel che sta accadendo, di comprendere quelli che sono i rischi che si corrono. Ma anche in questo caso, con un rappresentante di Assistance Living di Biticino, azienda che lavora su questo da ormai da molto tempo nel nostro paese, si è dimostrato come le tecnologie disponibili sono in grado di azzerare questa distanza e quindi possono essere diciamo elementi di sostegno e anche di innovazione. Senta Borghi, lei ha citato in questo momento proprio un'azienda, questo è un settore, e lo vediamo anche dal programma di Endimatica, ci sono tantissimi progetti presenti, è un settore che può generare anche occupazione. Assolutamente, questo è un ambito ulteriore di, diciamo così, chiamiamolo welfare tecnologico. Il welfare è il sostegno alla persona, il sostegno alla disabilità, il sostegno alla autosufficienza, la formazione di operatori, la miglior formazione di operatori, è già oggi un ambito non solo potenzialmente ma concretamente rilevante di inclusione per ciò che riguarda il lavoro. Evidentemente investire in tal senso dovrà essere anche nel nostro paese, pure in questa condizione economica che inevitabilmente, noi vogliamo sperare questo, dovrà cambiare, dovrà passare, dovrà lasciare il posto ad una ripresa non soltanto economica ma appunto anche di interesse, di attenzione delle istituzioni nei confronti delle tematiche legate all'accessibilità, alla disabilità e comunque all'autosufficienza. Dicevo, oggi parliamo di questo, ma il Fondo Nazionale per l'Autosufficienza è stato azzerato. Oggi avremo il sottosegretario al welfare Cecilia Guerra e l'assessore alla scuola, formazione e lavoro della Regione Emilia-Romagna, Patrizio Bianchi, anche di questo parleremo con loro, ma dicevo, non può essere solo una speranza, dovrà sicuramente essere questo uno degli ambiti attraverso i quali il nostro Paese ritroverà, anche dal punto di vista non solo delle relazioni, ma anche del senso di welfare di comunità, strade nuove, e noi in questi giorni, timidamente ma con molta convinzione, insomma, stiamo cercando proprio di dimostrare questo. Cerchiamo un po' di non perdere il treno anche su questi che sono temi decisamente importanti. Grazie a Gianluca Borghi della comunicazione di Endimatica. Grazie a voi, buona giornata. E allora continuiamo a parlare di Endimatica. Prima di tutto vorrei darvi qualche spunto proprio visivo che si vede alla mostra. Ieri ho fatto un piccolo giro per vedere quali sono gli stand e i laboratori permanenti che si tengono appunto all'Istituto Aldini. Allora, prima di tutto, una delle cose che salta subito agli occhi è questo pullman che è parcheggiato proprio nel cortile dell'Istituto Aldini all'interno, ed è il pullman dei non vedenti di una Onlus di Catania. Si tratta della stamperia regionale Braille siciliana, appunto, e loro hanno organizzato, oltre al polo tattile multimediale dove potete toccare i monumenti all'interno dell'Istituto Aldini, anzi c'è un cartello che ci accoglie che dice proprio vietato non toccare, una cosa che agli studenti che giravano nei corridoi dell'Istituto Aldini piaceva molto, ed è appunto la possibilità di vedere appunto con il tatto i monumenti, cosa che appunto per i non vedenti invece è inaccessibile proprio per la grandezza dei monumenti. Dall'altra parte appunto vi dicevo questo pullman che è parcheggiato fuori, che ci introduce un po' in quello che è nel mondo dei non vedenti, un pullman in cui c'è la possibilità anche di prendere un caffè completamente al buio, quindi riuscire a assaggiarlo, a sentire gli odori, ma anche proprio a fare l'esperienza del toccare la tazzina, non perderla, e per chi prende lo zucchero come me anche cercare di versarci dentro lo zucchero senza farlo rovesciare sul bancone. Insomma, un'esperienza veramente interessante e insomma non da tutti i giorni. Certo, se lo prendessi amaro il caffè sarebbe più facile, Damian, devo dire, almeno questo eviterebbe di sporcare il bancone. Certo, però sicuramente darebbe un test in meno in questo che, insomma, con le persone che accompagno all'interno di questo pullman diventa davvero un gioco divertente, anche perché ci si accorge effettivamente di come alcuni sensi, come ad esempio il tatto, che noi a cui noi diamo poca importanza, in realtà possono darci delle opportunità in più. A questo proposito c'è un altro laboratorio permanente, ne accennavamo prima, all'interno di Endimatica. Si tratta del laboratorio tenuto dal Centro Internazionale del Libro Parlato, e noi siamo andati a intervistare Jenny Poletti, che è una delle operatrici di questo centro, perché loro hanno fatto un vero e proprio laboratorio permanente per esplorare un quadro con il tatto. E allora, com'è possibile questo? Ce lo facciamo spiegare proprio direttamente dalle responsabili. Parte dalla stampa del quadro in digitale, dopodiché un esperto, attraverso lo studio del chiaroscuro del quadro, traccia delle linee significative, a cui poi a ogni linea darà uno spessore, in modo da realizzare un negativo della stampa che rappresenti appunto il quadro e a cui vengono assegnati vari spessori in base appunto alle linee dove si trovano, cosa rappresentano. In più, dopodiché, realizzato questo negativo, passa alla fresa digitale, la quale realizza uno stampo su una lastra di plastica. Realizzato lo stampo, viene fatta la colata di una resina particolare su questo stampo, che è una resina che ha delle caratteristiche molto importanti, che sono innanzitutto è trasparente e quindi fa trasparire i colori, così gli ipovedenti hanno l'opportunità di vederli questi colori attraverso anche, e quindi riconoscere le varie parti attraverso il tatto, vedere il colore del quadro. Piacevole al tatto perché assorbe il calore delle mani e quindi non disturba la visione del quadro attraverso appunto questo senso, questo nuovo senso. Questa è la realizzazione. Una volta realizzata la lastra, viene fatta la prova del 9 appoggiandola sopra la stampa e quindi si vede se il risultato è perfetto. Ecco. E dal punto di vista della fruizione, qual è l'esperienza? I nostri utenti, i non vedenti, gli ipovedenti, dopo un po' di allenamento, perché non è una cosa immediata, è una cosa comunque nuova, sono soddisfattissimi, addirittura lo vedono realmente il quadro. Insomma, c'è una signora ad esempio che noi abbiamo al centro del libro parlato di fete, si chiama la signora Nadia, che dice sempre che ha dei quadri preferiti e chiede sempre di poterli vedere, insomma li vede attraverso le mani ed è una gran soddisfazione. Dopodiché non è da sottovalutare comunque anche per i normoabili il fatto che possono esplorare l'arte attraverso un senso che è poco valutato, insomma, che è il tatto. Infatti anche qui abbiamo varie testimonianze di persone normoabili che dicono: sì, però io non l'avevo notata questa lacrima, non avevo notato il fatto di poter aggiungere il senso del tatto al senso della vista, fa sì che il quadro sia osservato più attentamente e non si perde nessun particolare. Voi come associazione vi chiamate il libro parlato? Sì, il centro del libro parlato. Cos'è il libro parlato? Perché tutto è partito quasi 20 anni fa, 15 anni fa, E il primo servizio che abbiamo fornito è stato gli audiolibri, quindi l'opportunità di dare l'opportunità non solo ai non vedenti ma anche ai portatori di problemi specifici di apprendimento di poter usare un libro e ad ascoltarlo invece che quindi abbattere le difficoltà per quanto riguarda la lettura ad esempio di un dislessico e così via. Ma a parte questo, il primo servizio abbiamo fornito gli audiolibri, abbiamo sui 1200 utenti e abbiamo su 300 donatori di voce in tutta Italia e gli utenti sono sparsi anche non solo in Italia ma anche in Europa. Molto bella l'immagine dei donatori di voce, davvero. Assolutamente bello questa immagine raccontataci da Jenny Poletti del Centro Internazionale del Libro Parlato, insomma, che mostra come a volte anche i sensi che noi diamo per scontati possono essere importanti e dare informazioni assolutamente nuove in un rapporto anche di collaborazione, diciamo così, tra le diverse modalità sensoriali di fruire l'opera d'arte. Questo è un lato, l'altro lato è vediamo se riusciamo a raccoglierne altri donatori di voce, lanciamo una campagna. Mi sembra anche molto interessante, questo era il senso anche della mia domanda a Borghi prima, l'idea di attività nuove a cui non abbiamo normalmente non pensiamo, attività nuove o meglio attività che diventano dei lavori, delle professioni e che però sviluppano in modo molto creativo, proprio in modo innovativo anche il rapporto con cose che sono nate per essere fruite in un certo modo. Penso il quadro, appunto, siamo abituati a guardarlo, invece in questo caso lo tocchiamo, quindi mi sembra estremamente interessante. Le nuove tecnologie tra l'altro danno anche degli elementi in più proprio nel loro sviluppo per le nuove disabilità. Penso ai siti internet in cui ad esempio le cosiddette tag o didascalie delle fotografie in realtà sono già pensate per essere poi fruibili anche per i non vedenti. E tra l'altro alla stessa Endymatica ci sono anche situazioni in cui si vede un normale computer, un normale PC o un tablet trasformarsi senza grosse apparecchiature in un supporto proprio per il movimento. Penso a una delle carrozzine per disabilità gravi che erano esposte a Endymatica, collegate semplicemente via Bluetooth con dei giocattoli tramite i tablet. In questo modo anche i bambini con delle forti disabilità potevano muovere un robot, un pupazzo, cose che in realtà già esistono perché i giochi controllati via Bluetooth già esistono anche nei negozi normalmente. In questo modo, tramite veramente un semplice tablet, possono diventare un supporto importantissimo per la vita di tutti i giorni. Parlavamo prima proprio del rapporto scuola e nuove tecnologie e disabilità. Ecco, tra le interviste che abbiamo raccolto ieri c'è anche quella a Luca Grandi, che è un operatore della cooperativa Anastasis. Cooperativa Anastasis che da anni si occupa di software e hardware che chiamano compensativo. Ecco, proprio il termine compensativo ce lo facciamo spiegare direttamente da Luca Grandi. Allora, i software compensativi sono strumenti che servono per inizialmente per compensare una difficoltà specifica che hanno alcuni studenti, in particolare ragazzi con dislessia, per esempio una difficoltà nella lettura. Quindi uno strumento compensativo in questo senso potrebbe essere la sintesi vocale, che trasforma il testo digitale che è nel computer in testo parlato. C'è una legge, la legge 170, che è uscita nel 2010, che praticamente dice alla scuola che per gli studenti con dislessia o disturbo specifico di apprendimento si devono adottare questi strumenti. Quindi praticamente l'insegnante deve valutare in base alle necessità dello studente quale o quali sono più opportuni per lui. Serve a compensare, ma in realtà si sta sempre più trasformando in strumento per l'apprendimento, essendo che tutto l'apprendimento sta diventando sempre più digitale. In questo caso lo strumento compensativo non semplicemente si limita a compensare una difficoltà, ma aumenta un po' le possibilità di apprendimento dell'allievo. Cioè, quindi anche per i normodotati, diciamo che è un approccio da nativi digitali. È sicuramente un approccio da nativi digitali, è una che sfrutta appunto le tecnologie per migliorare il metodo di apprendimento, quindi si parte dal libro digitale per trasformarlo poi in mappa, per trasformarlo in un qualcosa di più funzionale. Quindi diciamo, se per il ragazzo con dislessia è una necessità, per il ragazzo non dislessico diventa un'opportunità, perché sicuramente può anche a lui agevolarlo in tutto il processo di apprendimento. Ecco, una situazione di crisi, di tagli della scuola, questo come, quali sono poi le ricadute in questo settore? In questo momento il problema appunto è che l'acquisto di questi eventuali strumenti è a carico della famiglia, cioè la scuola non interviene se non in casi particolari. Questo ovviamente è un problema, per esempio rispetto ad altre nazioni dove questi strumenti vengono dati, pagati dallo Stato, noi su questo non siamo allineati. Devo dire che purtroppo la famiglia si ritrova a far carico a volte anche di una cifra non piccola, che però diciamo utilizza poi per tanti anni, quindi anche in questo ormai viene vissuta come proprio un investimento sulla qualità dell'apprendimento del figlio, quindi da questo punto di vista per fortuna c'è questa sensibilità. Insomma, un investimento, non sicuramente non soldi buttati sultati via, forse quello che c'è da pensare è che non dovrebbero essere a carico della famiglia, ma siccome sono di supporto a tutti i bambini, alla scuola, alla formazione, direi più in generale di tutta la comunità, forse questo ragionamento andrebbe decisamente allargato. Sono le 9:28 minuti, è tardissimo e noi vi dobbiamo salutare, però vi ricordiamo come al solito che potete continuare a scriverci sia sui nostri social network @PensaTech e sulla nostra pagina Facebook di Radio Città del Capo, ma anche appunto tradizionalmente via SMS al 348-7649-289 e alla nostra mail diretta @RadioCittàdelCapo.it. A questo punto non ci resta che salutarvi. Ciao a tutti, buona settimana.